Letture di Radio 24. A dicembre tutti o quasi aspettano il 25 per festeggiare, per ritrovare la famiglia, per fare e ricevere regali. Quest'anno c'è un'altra data che insidia il primato del giorno di Natale. È il 14 dicembre, quando si voterà la fiducia-sfiducia al governo Berlusconi. Per i nostri politici è la data delle date. Ad essa tutto tende e da essa tutto dipende. A metà strada tra il thriller politico cospirativo e la commedia all'italiana, l'orologio della crisi indica il 14 dicembre come la data delle date. Tutto è intorno a lei, come recita un famoso spot pubblicitario. Si comprendono bene le preoccupazioni del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Va in porto, prima del 14, la legge di stabilità, ex finanziaria, e i conti pubblici vengono messi in sicurezza. Però, mentre continuano a soffiare insidiosi i venti targati WikiLeaks, proprio a metà dicembre si apre il vertice europeo dei capi di Stato e di Governo e si tiene la riunione dei ministri Ecofin sulla riforma del patto di stabilità. Sarà un governo saldo, sfiduciato o vacillante quello che si presenterà al vertice? Nessuno lo sa. E questo già la dice lunga sullo sbandieramento multipolare. È assai ipocrita che da settimane è in corso per sottolineare l'interesse del Paese. Paese ad alto debito, peraltro fin qui ben gestito, che può ritrovarsi, nel pieno della burrasca europea, nei gorghi della speculazione. Infilatisi tutti nel collo di bottiglia del 14 dicembre, ciascuno prova a stappare le sue ragioni. Così il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini, per esempio, chiede, assieme a Gianfranco Fini e Francesco Rutelli, le dimissioni di Berlusconi entro il 14, perché già il 15 dicembre, ha spiegato, qualsiasi sia l'esito della fiducia il giorno prima, l'Italia potrebbe essere attaccata dalla speculazione internazionale. Il responsabile è chi vuole aprire la crisi di governo che abbasserebbe il rating dell'Italia, ribatte Berlusconi. I mercati, per così dire, osservano. Fiducia sì, fiducia no. Dal 14 dicembre dipende anche il destino della riforma universitaria, messa in frigorifero, da approvare entro l'anno. E se non rischia ora, chi può mettere la mano sul fuoco sull'esito finale della partita federalista? Il termine di 24 mesi per l'esercizio della delega sul federalismo scade il prossimo 21 maggio 2011. Il 14, dentro o fuori? Oppure una crisi pilotata? Breve, si dice. Ma quanto breve, dato che la speculazione in agguato aggredisce da un minuto all'altro, figuriamoci quando dispone di un preavviso. Si scruta nel passato, dove molti dei protagonisti di ieri si ritrovano nell'oggi, magari a parti invertite. Dicembre 1994. Berlusconi, che punta alle elezioni, abbandonato da Umberto Bossi e sostenuto da Fini e Casini, lascia dopo 8 mesi di governo. È il 22 dicembre e il 13 gennaio 1995 il presidente della Repubblica, Scalfaro, conferisce l'incarico di formare il governo a Lamberto Dini, ministro del Tesoro del primo governo Berlusconi. Dini è presidente del Consiglio il 17 gennaio. Il 22 si presenta in Parlamento per la fiducia. Aprile 1993. Dal giugno 92 alla guida del governo c'è Giuliano Amato. Siamo in piena Tangentopoli. Anche i ministri sono colpiti dalle inchieste giudiziarie. Amato capisce che il ciclo vitale del suo governo è esaurito già a inizio 93. Amato si dimette il 21 aprile. Il 26 il governatore uscente di Banca Italia, Carlo Azeglio Ciampi, presenta la lista dei ministri. Il 21 maggio ottiene dalle Camere la fiducia. Nel primo caso, governo Dini, occorre circa un mese. Nel secondo, governo di transizione Ciampi, molto di meno. Ma va ricordato che il sistema dei partiti era praticamente liquefatto. Pilotata o no, una crisi è comunque sempre una crisi. E dal collo di bottiglia del 14 dicembre le previsioni ballano, comprese quelle sul discorso di Berlusconi, che potrebbe spostare in avanti o indietro il pendolo dell'orologio. Avete ascoltato l'editoriale di Guido Gentili pubblicato sul Sole 24 Ore del 7 dicembre dal titolo «Tutti invitati alla tombola del 14 dicembre». Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo e super teste dell'inchiesta sulla trattativa fra mafia e Stato, ha accusato Gianni De Gennaro, attuale direttore del Dipartimento per le Informazioni di Sicurezza, di essere l'attore principale o uno dei comprimari della presunta trattativa tra mafia e Stato nei primi anni 90. Per queste dichiarazioni è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Caltanissetta con l'ipotesi di calunnia nei confronti dell'ex capo della polizia, mentre De Gennaro incassa anche la stima del direttore dell'FBI. Per quasi 30 anni De Gennaro è stato un amico fidato dell'FBI e delle forze dell'ordine USA nella lotta alle mafie. Il crollo della credibilità di Massimo Ciancimino spingerà i suoi fans a rivedere le proprie posizioni? A chi mi riferisco? Ad Anno Zero, per esempio, a Repubblica, al Fatto Quotidiano e a vari altri, i quali nei mesi scorsi hanno fondato sulle testimonianze e sull'indubbia serietà di Vito Ciancimino e anche del pentito Spatuzza una robusta ricostruzione della storia politica italiana degli anni 90 e del modo nel quale nacque la Seconda Repubblica e si affermò il berlusconismo. Diciamo che non è stata questione di un articoletto o di un'intervista in TV. Prime pagine e prime pagine. Una campagna giornalistica molto forte, battente, ben congegnata, che puntava a sostenere la tesi che la Seconda Repubblica non ha alcuna legittimità democratica. Ho scritto varie volte che la consideravo la tomba di ogni speranza che in Italia tornasse a vivere una sinistra. Dal momento che sono convinto che la sinistra non tornerà mai a vivere se continuerà ad affidare il suo futuro sull'azione dei giudici o sugli scoop di Repubblica e sulla conseguente demolizione e possibilmente carcerazione degli avversari politici. Ma non è importante il mio pensiero. Ora c'è una cosa molto più concreta, il crollo del pilastro di quelle tesi. Cioè la fine della favola di Ciancimino che sapeva tutto e raccontava tutto. Questa novità fa crollare rovinosamente quelle tesi. Mi riferisco alle sue dichiarazioni su Gianni De Gennaro. Sono quelle dichiarazioni a rendere del tutto inaffidabile il figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo. Perché? Di Gianni De Gennaro penso che sia stato un pessimo capo della polizia, che lo sia stato troppo a lungo, che abbia delle responsabilità molto gravi per il massacro di Genova del 2001 e per il comportamento cileno dei suoi uomini. Però solo immaginare che Gianni De Gennaro sia compromesso con la mafia è una follia pura. È come dire che Francesco d'Assisi accumulava ricchezze. De Gennaro ha una carriera piena di demeriti fortissimi e di meriti eccezionali. Tra i meriti sicuramente c'è il suo sodalizio con Falcone, che portò lo Stato a infliggere colpi micidiali e in parte irreparabili alle cosche mafiose. Solo che allora De Gennaro e Falcone non compravano pentiti a scatola chiusa, né se li rivendevano in TV, né credevano loro sulla parola. Lavoravano, verificavano, riscontravano, accertavano. E Falcone, prima di spiccare un avviso di garanzia, ci pensava 100 volte. Perché? Non solo per garantismo, ma perché riteneva che il rigore estremo fosse l'unico modo per non danneggiare le indagini. Falcone diceva che il buon giudice non è quello che inizia molti processi, ma quello che li vince. E i finti pentiti, di sicuro, non aiutano. Ora, la domanda che vorrei porre è questa. Anno Zero, Il Fatto, Repubblica, presenteranno ai loro lettori o spettatori la nuova versione dei fatti? Cioè, diranno loro con grande risalto «Ci siamo sbagliati, Ciancimino e Spatuzza non sono credibili e dunque le cose negli anni 90 non andarono come noi ci eravamo immaginati?» Se lo faranno, per me sarà una sorpresa molto positiva e potrei rivedere l'idea della quale mi sono convinto in questi anni, e cioè che il giornalismo è morto. Se non lo faranno, sarà la conferma che il giornalismo italiano non ha nessun interesse alla verità. La considera un orpello fastidioso e concepisce se stesso soltanto come il protagonista di un'attività mercantile, subalterna ai progetti politici o industriali dai quali è finanziata. Avete ascoltato l'editoriale di Piero Sansonetti, qualche domanda a quelli del Ciancimino Show, pubblicato su Il Riformista di martedì 7 dicembre. Mamma, non ce la facciamo più, dobbiamo proprio fare la pipì. Siamo fuori Torino, quasi in campagna. La mamma dei due bambini accosta e li fa scendere dall'auto. Una piccola scocciatura che le farà perdere solo qualche minuto, pensa la donna. Pazienza. Che ingenua. Non lo sa che l'Italia è un paese pieno di sorprese? Mi scappa la pipì. Ma ai due ragazzi e alla mamma, costretta a fermare l'auto in aperta campagna, è andata davvero storta. Una pattuglia dei carabinieri li ha fermati, portati in caserma e denunciati. Una disavventura che costerà alla famiglia poco meno di 700 euro, tra contravvenzione e spese legali. è successo lungo la direttrice per Lombardore, a una quindicina di chilometri da Torino. Mentre la donna resta al volante, i due si dirigono verso i prati. Passa una gazzella. I carabinieri notano la scena. «Ehi voi, che fate?» intima il maresciallo. «Sto facendo la pipì», confessa il grande, sorridendo. «Presi in flagrante». «Documenti», dice il milite. «Atti contrari alla pubblica decenza». La mamma scende dalla vettura, chiede spiegazioni, poi, timorosa, si giustifica. «Del piccolo non ho documenti». «Fermi, facciamo accertamenti», aggiungono i militari. «Ma scherzate davvero? Qui ci sono solo arbusti, che cosa c'è di male?» prova a dire la madre. «Tutti in caserma, seguiteci. L'ordine è perentorio». Inutili le giustificazioni dei ragazzi. «Mamma, non c'era nessuno», ripete timidamente il bambino. La contravvenzione davanti al giudice comporterà un'oblazione di 206 euro, oltre le spese per l'avvocato. Eppure la Cassazione ha sentenziato che, se certi atti vengono fatti con accortezza, lontano da occhi indiscreti e senza offendere o recare fastidio, non si parla di reato. Ma allora perché perdere tempo in casi del genere? Si discute tanto di riforma della giustizia per ridurre i tempi dei processi e si rischia di moltiplicare le cause vigilando le campagne, a caccia di chi gli scappa la pipì. Per la famiglia multata, infine, la beffa. Abitiamo in un palazzo vicino a un accampamento di nomadi. Gli zingari fanno i loro bisogni sotto le finestre, sotto gli occhi dei nostri figli, dice rassegnata la mamma. Avete ascoltato l'articolo di Luciano Borghesan intitolato «Denunciati due ragazzini sorpresi lungo la strada», pubblicato dalla Stampa di martedì 7 dicembre.